Vabbè, allora, visto che tanto la storia delle strumentali americane non c'ho più bisogno di spiegarla o giustificarla, visto che Jamie Times avrà già fatti due dei mixtape così e va distrutto, passiamo al prossimo argomento, che è: se vi piace sta roba e la volete sentire dal vivo, chiede agli organizzatori dei serate rap nella vostra città di contattare Zona1Booking o oniro.it, info@oniro.it o Zona1Booking@gmail.com. Yeah! Sentite qua, vai! La mia laurea non c'è come Laura. Più di un trauma mi ha reso negativa Laura. Ma adesso sto con le fiche, tu con la fauna. Hai perso troppo tempo, la vita non si restaura. Ciò che so non lo sai, quindi ciao fra. Non metti il tuo flow che è un bonsai col mio baobab. Parto e non mi prendi più come il Mullah Omar. Finché c'ho la voce rauca come Shao Kahn. Fresh, no bone talk, senza cash, co-co-co. Later che fa, no no no, la gente che fa po, po, po. Tra chi rimane a rocco corro come vale, go, go, go. Niente contenuti, niente atteggiamenti convenuti. Se li vuoi compra Escape from Mars. Così fai bravo b-boy, non il fake in chat. Scrivo questo pezzo qua, poi recopro il pezzo là. Sempre sotto l'exo danno bombe tipo gli Hezbollah. Ma quale star? Dici cazzate, puoi trovarmi fatto al bar. Puoi trovarmi fatto al bar. Puoi trovarmi fatto al bar. Yeah. Rollami un'altra, poi poppa questa merda qua. Tutto il resto sembra fatto 15 anni fa. Se ci trovano morti mi sa vivrai di ricordi. Perché di noi non ti scordi. Perché di noi non ti scordi. Volo nello spazio come Laika, ti spezzo in Ray-Ban, chiamami Daitar, te la passo ti teletrasporti in Giamaica, fuori bianchi dentro negri olandesi come Raikar. Il mio è un suono da strada e tuo da baita, fai merda arcaica come una balalaica. Lei non te la dà mai, ma con noi mette la spycam e perde la testa come Al-Qaeda. La mia gente raida, nelle case, negli stereo, negli iPad. Con due barre rilascio più veleno di un Taipan. Rime brutte non ne ho fatte mai, fra. Mi sfidi, finisci come su Shutter Island. Ti tolgo i poteri come Sylar. Sendo più gente che nella saga di Die Hard. Ti ci mando sotto come i cristalli. Poi il programma per registrare lo disinstalli. Rollami un'altra, poi poppa questa merda qua. Tutto il resto sembra fatto 15 anni fa. Se ci trovano morti mi sa vivrai di ricordi. Perché di noi non ti scordi. Perché di noi non ti scordi. Yeah, questa è una delle poche cose sicure della vita oggi nel 2011. Che stiamo vicini alla fine, no? Eppure quando finirà tutto di noi non ti scorderai, frate. Ti seguiremo all'inferno, in paradiso, dovunque vai. Sì, dovunque andrai.